La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla bonifica integrale della palude pontina, cominciata nel 1924. In particolare, attraverso le testimonianze degli abitanti, vi racconteremo della città di Sabaudia che il prossimo 5 agosto celebra 80 anni dalla sua fondazione. Ospite ai nostri microfoni, Daniela Carfagna, direttrice del centro di documentazione Angelo Mazzoni di Sabaudia. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla cattura e all'uccisione di Osama Bin Laden. La parola adesso va a Dino Pesole. È una giornata fausta per l'agro pontino, è una giornata gloriosa nella storia della nazione. Noi oggi, con la inaugurazione ufficiale del nuovo comune di Vittoria, consideriamo compiuta la prima tappa del nostro cammino. Il prossimo 5 agosto ricorreranno gli 80 anni dalla fondazione, mentre l'inaugurazione vera e propria della città avvenne il 15 aprile del 1934. Stiamo parlando di Sabaudia, uno dei classici esempi dell'architettura razionalista, la cui nascita in epoca fascista va inquadrata nella vasta operazione di bonifica integrale della palude pontina, operazione che vide la nascita di altre quattro città: Littoria, ora Latina, la città capoluogo, poi Aprilia, Pomezia e Pontinia. Le testimonianze orali di quanti vissero la bonifica in prima persona, raccontate tra gli altri nel romanzo di Antonio Pennacchi, Canale Mussolini, sono una fonte preziosa per circoscrivere e contestualizzare quel che avvenne nelle paludi dell'agro pontino negli anni 30 del Novecento. Ve ne proponiamo alcune, tratte da un DVD realizzato in parte dal comune di Sabaudia su progetto di Paolo Quaregna, dal titolo A memoria d'uomo, le pillole della memoria. La prima testimonianza orale è di Giuseppe Dalla Valle. Nel 34, alla fine, al mese di dicembre, tutti i veneti di queste famiglie li hanno spediti qui nell'agro pontino e siamo venuti tutti a Sabaudia. Sulla mappa era già segnato le famiglie, dove dovevano andare, e noi ci ha segnato questo podere che era di 32 ettari e mezzo. E il contratto che hanno fatto il padre era per 25 anni, tutti i raccolti li portavano via e ci lasciavano il mangiare. Abbiamo messo giù bagigi, cotone, olio di ricino, bietole di zucchero, miglio, lenticchie, e venivano fuori grano, biada, di tutto. E quello che veniva fuori, quei camion portavano via tutto e ci davano il mangiare. Eravamo in tanti, eh? Diamo il benvenuto a Daniela Carfagna, autrice di diversi saggi sulla bonifica, direttrice del centro di documentazione Angelo Mazzoni di Sabaudia. Buonasera, dottoressa. Buonasera, dottor Pesole. Allora, ci racconti un po', ci aiuti a capire i primi anni della bonifica. Ma quando si parla di bonifica pontina dobbiamo inquadrare il periodo che va dal 1920 circa al 1940, anche se l'attività esecutiva si svolse poi dal 1922. Fu un periodo laboriosissimo, in quanto furono costruite circa 3.000 case coloniche, aperti 500 chilometri di strade interpoderali, 205 chilometri di canali, furono dissodati 48.000 ettari di terreno, furono rubati al bosco 20.000 ettari di macchia, costruiti 14 borghi, insomma fu un'attività veramente grandiosa da questo punto di vista. Bene, un'attività grandiosa che adesso è il nostro secondo supporto sonoro, chiamiamolo così, sempre di Giuseppe Dalla Valle, ci aiuterà a capire meglio. Quando che poi è morto Mussolini, sono venuti e hanno detto o che pagate il terreno, perché i 25 anni non erano finiti, o che pagate il terreno, dici, o che ve ne andiate. E abbiamo fatto sacrifici per un paio di anni messo giù tanta roba e abbiamo potuto recuperare i quattrini per pagare. Ecco, dottoressa Carfagna, ci aiuti ancora a capire meglio l'effetto che ebbe, in termini se vogliamo anche sociali, questa migrazione di migliaia di persone che il regime fascista decise di trasferire d'un colpo dal Veneto all'Agropontino. Beh, l'impatto diciamo fu abbastanza traumatico, perché voi non dovete pensare a un territorio dove non c'erano persone. In realtà questo era un territorio abitato anche prima della bonifica. Qui c'erano tantissime popolazioni che venivano dall'Alto Frusinate, dai Monti Lepini, dalla parte meridionale della provincia, e che abitavano comunque nelle zone non impaludate di queste terre. E queste persone avevano un tipo di vita completamente diverso da quello dei friulani, dei veneti, dei ferraresi. Immaginate le donne dei Monti Lepini vestite di nero, con il fazzoletto in testa, in nuclei familiari molto ristretti, e ai loro uomini abituati a pascolare il bestiame, a fare i carbonai, a fare i cacciatori. Nel momento in cui qui vennero nei poderi queste donne alte, bionde dell'Italia settentrionale, che per muoversi andavano in bicicletta, che non usavano gli zinaloni lunghi o le gonne fino alle caviglie, ma usavano un tipo di vestito molto più corto, fecero veramente scandalo in questa zona. La inviterei adesso ad ascoltare insieme un'altra testimonianza, quella di Saro. La storia di San Baudia, io la racconto che mi è stato riportato fedelmente da mio suocero, che mio suocero è nato qui, ai tempi prima della bonifica, quindi abitava a Cerasella. Questo territorio, specialmente dove c'è oggi il Palazzo delle Poste, lì era un grande bosco di sugheri. Loro qui venivano a pascolare il bestiame. Nel 1934 a casa sono andati a casa. Nella lestra, dentro il bosco, sono arrivati i gendarmi e li hanno fatti andare via. Quali cambiamenti, dottoressa Carfagna, ebbe questo processo così complesso, così importante, di bonifica sul tessuto produttivo, ma anche in termini, se vogliamo, sociali, nell'integrazione di popolazioni che arrivavano da altre parti d'Italia in un territorio praticamente tutto da costruire? Ma guardi, l'integrazione ancora non si è completata. Infatti è ancora fortemente un problema questo per la nostra città, in quanto i nuclei sono rimasti ancora oggi riconoscibili. Ogni gruppo, il gruppo friulano, il gruppo napoletano, mantengono le loro tradizioni, il loro tipo di cucina. C'è stato sì un'amalgama, però in realtà questo sarà un processo lunghissimo. Se lei pensa che Sabaudia ancora non ha 80 anni e per costruire comunque una cultura, un senso di appartenenza, ci vogliono molti di più che 80 anni. Certo, il tempo è sicuramente occorre per un'integrazione piena. Adesso, prima di salutarci, ascoltiamo Rossana Stoppani, un'altra preziosissima testimonianza per capire il clima di quegli anni. Io sono arrivata a Sabaudia, non c'era niente, solo un cane che piangeva in piazza, perché la corriera si fermava davanti al comune. E andai là subito con mamma, era molto bello, sia l'immobile sia tutto ciò che era intorno, fiori, piante, bellissimo. Come disse Menichella, il professor Menichella, che doveva diventare direttore, era un paradiso terrestre, bellissimo. Ecco, allora le volevo chiedere infine, la riscoperta dell'interesse di Sabaudia, devo dire, e anche dell'Agro Pontino, delle vicende storiche che attraversarono quelle terre, anche grazie ai romanzi di Antonio Pennacchi, può essere utile a suo avviso per consegnare in termini storici anche alla valutazione degli storici, ma anche di chi si appassiona di questa materia, una visione il più possibile organica di quel che accade, perché molto spesso sulla bonifica si hanno pareri un po' discordanti. Beh, certo, la bonifica fa sempre discutere, perché oggi in cui abbiamo, no, una sensibilità diversa verso il territorio, magari avremmo fatto una bonifica completamente diversa, avremmo mantenuto più zone umide, avremmo sicuramente mantenuto una porzione più grande della foresta planiziaria. Però in quell'epoca occorreva comunque vincere una battaglia del grano, occorreva dare la terra agli ex combattenti. E per Sabaudia per tantissimi anni ha avuto su di sé il marchio comunque della sua fondazione fascista, però già dalla fine degli anni 70, con la riscoperta da parte di Moravia, di Pasolini, è diventata il luogo dell'anima, il luogo in cui tanti scrittori, tanti registi, tanti poeti venivano a ritirarsi. E non dobbiamo dimenticare che Moravia aveva qui sulle dune la Villa del Venerdì, dove veniva ogni fine settimana insieme a Pasolini, perché trovava l'ispirazione guardando le nostre dune che gli facevano ricordare l'Africa, o Emilio Greco, che dice: soltanto sulle dune di Sabaudia io vinco l'ansia. Quindi l'operazione, insomma, della riscoperta della dimensione onirica e magica di questi luoghi è cominciata già da diversi anni, devo dire. Bene, bene, grazie, grazie a Daniela Carfagna per questi importanti chiarimenti e buona serata. Buona serata a lei. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla cattura di Osama Bin Laden. Quasi 10 anni dopo l'11 settembre, il nemico numero uno degli Stati Uniti d'America è ancora vivo e progetta nuovi attacchi. Vi raccontiamo come i servizi segreti americani sono riusciti a stanare e uccidere l'uomo più ricercato del mondo. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 12 maggio, alle 21 su History Channel. Negli anni che seguono l'11 settembre, gli Stati Uniti e i loro alleati spendono miliardi per le guerre in Iraq e in Afghanistan. Ma l'uomo più ricercato del mondo è imprendibile e gli attacchi di Al-Qaeda continuano. Juan Zarate, vice consigliere per la sicurezza nazionale per la lotta al terrorismo 2005-2009. Era molto frustrante non riuscire a individuare il capo di Al-Qaeda. L'uomo responsabile dell'11 settembre e di atrocità in tutto il mondo non si trovava da oltre 10 anni. Philip Mood, vice direttore del Centro Antiterrorismo della CIA 2003-2005. Se non usano il telefono, se non si mandano email, se non prendono parte a riunioni direttive congiunte, come fanno a comunicare? Usano delle persone. I corrieri sono il sistema nervoso di Al-Qaeda. I corrieri viaggiano per centinaia di chilometri attraverso il nord-ovest del Pakistan e il confine afghano prima di accendere i loro cellulari e telefonare. E regolarmente distruggono le SIM card. Ma lentamente ci sono degli sviluppi. Durante gli interrogatori americani vengono usati metodi così brutali che molti paesi li considerano torture. In uno di questi interrogatori viene fuori un nome, ripetuto diverse volte. L'uomo del Kuwait. Il nome in codice di un supercorriere al servizio dei più importanti capi di Al-Qaeda. E forse dello stesso Bin Laden. Al-Kuwait diventa l'obiettivo chiave dei servizi segreti americani. Ma poiché non si conosce il suo nome, il suo numero di telefono, né si sa dove si trovi, la traccia diventa labile. Nel 2008, un candidato alle presidenziali promette che farà tutto ciò che è necessario per catturare Osama Bin Laden, Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Quando correvo per le presidenziali, ho sottolineato che Al-Qaeda doveva essere il nostro primo obiettivo e che eravamo stati distratti dalla guerra contro Saddam in Iraq. In Afghanistan c'era una situazione di stallo e sembrava che ormai ci fossimo dimenticati che la ragione per cui eravamo andati laggiù era in primo luogo inseguire Al-Qaeda e che Bin Laden non era soltanto il simbolo dell'organizzazione terroristica, ma anche il loro principale capo operativo. Doveva essere la priorità maggiore della CIA, perché sentivo che la cattura di Osama Bin Laden ci avrebbe dato lo slancio necessario per smantellare Al-Qaeda. Oltre a risorse maggiori, la CIA ha un'intuizione. I corrieri dell'elite di Al-Qaeda non possono distruggere sempre le SIM card. Generale Michael Vincent Hayden, direttore della CIA 2006-2009. Buttare i cellulari era controindicato per loro in termini di velocità e agilità. Scoprimmo che non si sbarazzavano dei telefoni. Cercavano di fare attenzione, ma non li gettavano via. I servizi segreti pakistani hanno una lista di numeri di cellulari. Numeri che si pensa vengano usati dai corrieri più importanti di Al-Qaeda. La mettono a disposizione della CIA. Uno di questi numeri potrebbe appartenere al misterioso Al-Kuwaiti. Inizia un paziente lavoro. Vengono usati sistemi di intercettazione per ascoltare telefonate in tutto il mondo. Finalmente, nell'estate del 2010, un computer dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ascolta una conversazione al cellulare. Un uomo nel nord-ovest del Pakistan sta parlando in arabo con un amico del Golfo Persico. L'amico è un noto simpatizzante di Al-Qaeda. Gli ascoltatori sono convinti che l'uomo in Pakistan sia il supercorriere Al-Kuwaiti. E quello che dice li lascia senza parole. John D. Gresham, analista militare e storico. Molte persone mi hanno chiesto: vuoi dire che una sola telefonata ha portato a quella svolta? E io ho risposto: già, è proprio così. È stata una piccola e apparente innocua ingenuità. Solo una. È bastata quella. L'agenzia americana impiega ogni mezzo per seguire Al-Kuwaiti. I dati dei satelliti e dei droni vengono trasmessi in America in tempo reale. Dozzine di analisti della CIA osservano tutti gli spostamenti di Al-Kuwaiti. E uno di questi è totalmente imprevisto. Tutti pensano che Bin Laden si nasconda nella cintura tribale afgano-pakistana, protetto dai talebani. Si aspettano che il SUV di Al-Kuwaiti vada verso i monti afghani. Invece, con sorpresa e disappunto degli osservatori, l'auto prende la direzione opposta e si avvia verso le maggiori città del Pakistan. Giunge all'importante ed esclusiva città di Abbottabad, sede dell'Accademia Militare Pakistana. Alla fine, si ferma in una zona residenziale alla periferia della città, in un ricco quartiere dove vivono generali e colonnelli in pensione. Le speranze si riaccendono quando la CIA osserva il compound nei particolari. Il direttore della CIA, Leon Panetta, informa il presidente Obama di una possibile svolta nella caccia a Bin Laden. Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Leon era cauto nel dire che si potesse affermare con certezza che quello era il luogo dove si trovava Bin Laden. Il mio atteggiamento era interessato, ma prudente. La CIA non perde tempo. Agenti che sembrano pakistani e che parlano urdu si trasferiscono in una casa di fronte al compound e iniziano ad osservare tutto ciò che succede. Sorvegliano la loro giornata tipo. Ogni dettaglio dentro e fuori il compound viene meticolosamente registrato giorno e notte. Ancora il presidente Obama. Si tratta di una raccolta minuziosa di prove. Raramente trovi la cosiddetta pistola fumante, la prova di cui hai bisogno proprio lì, davanti agli occhi. Il più delle volte devi mettere insieme vari elementi. Scoprono che Al-Kuwaiti e suo fratello vivono nel compound con le rispettive famiglie e che tengono molto alla loro privacy. Si possono permettere belle auto, ma la loro casa non ha telefono né una connessione internet. Mangiano quello che coltivano, macellano i loro animali e bruciano scrupolosamente i propri rifiuti. Quando una palla da cricket finisce oltre il muro, Al-Kuwaiti e suo fratello non permettono ai bambini di prenderla. Sospettosi, pagano i ragazzi e distruggono la palla. I fanciulli trovano questa prassi redditizia. Più palle finiscono dentro, più soldi guadagnano. La CIA può solo guardare e sperare che quei ragazzi non spaventino gli occupanti e li facciano scappare. Ogni tanto intravedono altre persone muoversi all'interno del compound. È una terza famiglia che vive all'ultimo piano. Sono ancor più riservati dei Kuwaiti. Donne e bambini che non vanno né al mercato né a scuola. E un uomo che qualche volta esce a passeggiare in giardino, ma non lascia mai il compound. Gli osservatori della CIA, i satelliti e i droni si concentrano tutti su quest'unico uomo. Lo chiamano il camminatore. Una delle poche cose che Bin Laden non può cambiare di sé è la sua altezza, 1,93 m. Partendo da poco più di un punto in una foto scattata da un drone, la CIA cerca di calcolare l'altezza del camminatore. Misurano la sua ombra e la confrontano con l'angolazione solare, ma purtroppo non riescono ad ottenere una figura precisa. La CIA presenta al presidente Obama le ultime prove e propone di attaccare. Obama ordina alla CIA di elaborare le possibili opzioni per l'attacco al compound. Leon Panetta contatta immediatamente il comando congiunto per le operazioni speciali, le truppe scelte americane. Il comandante delle truppe è l'ammiraglio William McRaven. Obama chiede a McRaven di iniziare immediatamente a prepararsi per un raid. McRaven ricrea ogni dettaglio del compound pakistano in alcuni modelli in scala. I suoi uomini hanno attaccato dozzine di luoghi simili. Il piano è basato sulla loro esperienza. Va bene, al lavoro. Per affinare le loro abilità, si allenano ad identificare amici o nemici, membri di Al-Qaeda o civili, immediatamente e al buio. In Nevada costruiscono una copia a grandezza naturale del compound per esercitarsi. Devono riuscire a raggiungere l'edificio di notte, forse circondati dal fumo e sotto tiro. McRaven fissa un tempo limite, solo 30 minuti sul campo. Per aiutare i suoi uomini a non essere scoperti quando atterreranno e decolleranno da Abbottabad, l'ammiraglio McRaven chiede elicotteri invisibili ai radar dotati delle più moderne tecnologie. Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America. Alcuni nostri agenti ritenevano che ci fosse soltanto un 40 o un 30% di possibilità che Bin Laden vivesse nel compound. Altri dicevano l'80-90%. Alla fine di una discussione alquanto lunga in cui ognuno espresse le proprie valutazioni, io dissi, siamo al 50-50. Era soltanto un'ipotesi. Ovviamente sapevo che se la missione fosse fallita, non soltanto rischiavano di perdere la vita i valorosi SEAL che avevamo mandato laggiù, ma ci sarebbero state enormi conseguenze geopolitiche, anche se c'era solo il 50% di possibilità che Bin Laden fosse lì. Pensai che valesse la pena tentare. Ci annunciarono che Geronimo, il nome in codice assegnato a Bin Laden, era IKIA, ossia era stato ucciso durante l'azione. Fu un grosso rischio. Se non ricordo male, in quel momento dissi qualcosa di molto breve, dissi solo, l'abbiamo preso. E nella Situation Room non ci furono grida, strilli, non c'era gente che si dava il 5. Eravamo tutti concentrati su quei ragazzi che dovevano ritornare a casa sani e salvi. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Uccidete Bin Laden, regia di Bruce Goodison, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione BBC. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 12 maggio alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.